America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We have issues like this with all kinds of taxes. When an executive takes a flight on a corporate jet. Alan Auerbach, professore di economia a Berkeley, una dichiarazione sulla disuguaglianza, una dichiarazione su alcune delle ricette di Thomas Piketty. Vi ho fatto ascoltare Auerbach perché fa dei commenti piuttosto interessanti su quello che è il tema che ha dominato la riunione degli economisti americani che si tiene ogni anno nel primo fine settimana di gennaio. Quest'anno si è tenuta a Boston, si è chiusa ieri. Thomas Piketty, l'autore francese, l'economista francese che ha dominato con questo suo libro sulla disuguaglianza, pieno di dati, pieno di prove che dimostrano quanto la sperequazione domini la nostra società, beh, è stato, direi, l'oggetto centrale del dibattito, del confronto fra economisti. Perché se tutti prendono atto che oggi c'è in effetti sperequazione, non tutti sono d'accordo come combatterla. Le ricette di Piketty sono drastiche, ricorderete che ha persino rifiutato di prendere la Legion d'Onore come segno di protesta, ma la posizione degli economisti americani è più prudente. Si dice, beh, un modo di evitare la sperequazione è quella di tassare i consumi. Noi già lo abbiamo in Europa, abbiamo l'IVA, l'imposta sui consumi. In America l'imposta sui consumi è molto molto più contenuta, l'IVA non c'è. Quindi una delle cose di cui si dibatte è possibile introdurre l'IVA in America? In questa riunione, devo dirvi, vi sono centinaia di incontri. Si parla di tutto, dalla tesi di un economista italiano, Diana Ferrara, che dice che in Brasile sono state le telenovelas che hanno consentito di ridurre il tasso di natalità, fino a un altro professore che cercava di trovare un modello per capire come le donazioni alle parrocchie, alle chiese locali potessero migliorare l'economia. Vi dicevo, quest'anno ha dominato il dibattito sulla disuguaglianza, e il fatto che si parli di disuguaglianza indirettamente ci dice anche un'altra cosa, e cioè che l'economia in America sta andando bene. Questo lo sappiamo già dai dati statistici: un tasso di crescita del 5% nel terzo trimestre, 1 milione di nuovi occupati in 3 mesi, la borsa che ha sfondato a un certo punto nuovi record. E dunque, visto che non c'è più lo spettro della recessione, di un'inflazione travolgente, di un problema di fallimento delle banche, ecco che nella stabilizzazione si può pensare alla prossima sfida, appunto quella della sperequazione. La situazione è molto diversa ovviamente da noi in Europa, dove restiamo indietro, cosa che ci porta a due altri temi del giorno. Il primo: come siamo arrivati a questa situazione in cui l'America non si preoccupa più di dover crescere, ma si preoccupa di come portare una maggiore eguaglianza sociale. The point is that when as economic conditions change, the answer to that question you just asked, well, what are interest rates going to look like, will be changing on an ongoing basis. Dariana Cocerlacota, un nome che a voi non dirà nulla, ma che è il governatore della Fed di Minneapolis. Quindi è uno dei governatori che partecipa alle decisioni di politica monetaria della Fed. Perché vi dico questo? Perché la Fed è stata determinante nel restituire all'economia americana quella forza, quella grinta che abbiamo potuto constatare negli ultimi mesi, prendendo decisioni coraggiose in totale autonomia. Decisioni coraggiose, per esempio, con il quantitative easing, con queste misure speciali per acquistare sul mercato titoli del tesoro o titoli immobiliari, manovra che aumentava la liquidità e la disponibilità di liquidità sia per le banche che per i consumatori che per gli investimenti. A questo punto siamo alla svolta. Il 2015 ci porta a un giro di boa. Perché? Perché ci sarà un aumento dei tassi di interesse. Dunque, anche se ci preoccupiamo della sperequazione, forse dovremmo cominciare a preoccuparci della tenuta della ripresa. Qualcuno dice, ad esempio il signor Cocerlacota, che non si dovrebbe procedere con un aumento dei tassi di interesse nei primi 6 mesi di quest'anno, a giugno, dicono i bene informati, perché l'economia è ancora a rischio, soprattutto perché il tasso di inflazione è al di sotto dell'obiettivo del 2% della Federal Reserve. Si doveva raggiungere per la fine dell'anno scorso un tasso di inflazione dell'1,9% e invece ci siamo fermati all'1,3%, grazie in buona parte alla caduta verticale del prezzo del greggio, che ha avuto un impatto immediato sui prezzi al consumo, ma anche al netto dei prezzi energetici, di quelli alimentari, l'inflazione sarebbe stata alla fine del 2014 dell'1,7%. Ecco, per queste ragioni, dice il governatore della Fed di Minneapolis, non dobbiamo aumentare i tassi di interesse. Sul fronte opposto ci sono altri governatori conservatori, che invece ritengono che i tassi dovrebbero essere aumentati al più presto, non bisogna aspettare giugno. Sto parlando per esempio di Charles Plosser, il presidente della Fed di Filadelfia, oppure di Richard Fisher, che è presidente della Fed di Dallas. In mezzo ci sono coloro che appartengono alla maggioranza, John Williams, tanto per dirne uno, che ha parlato proprio a Boston, alla riunione degli economisti, il quale conferma la linea Yellen, è la linea ufficiale. Ci sarà un aumento dei tassi di interesse prima che si possa rilevare nell'economia un tasso di inflazione del 2%, ma si procederà con pazienza, che è la frase chiave che ha dominato, direi, il post Federal Open Market Committee del dicembre scorso. Tutto questo per dirvi che cosa? Che dentro la Fed ci sono opinioni discordanti, ma sono delle opinioni discordanti nell'interesse del paese, nell'interesse della crescita, nell'interesse della occupazione, non nell'interesse della politica. Fisher, per esempio, governatore della Banca del Texas, vuole aumentare i tassi di interesse subito. Ebbene, il Texas sta vivendo un momento di difficoltà perché i prezzi energetici stanno diminuendo e dunque il petrolio aveva portato grande benessere al Texas. Davanti al Texas, da un punto di vista regionale, c'è un rischio di rallentamento dell'economia. Eppure Fisher va contro l'interesse del suo governatore. Ecco, questo è quello che manca alla Banca Centrale Europea. I governatori rappresentano gli interessi dei loro paesi. Il governatore della Bundesbank riflette il pensiero di Angela Merkel. Questa è la differenza chiave, secondo me, di cui dobbiamo tener conto quando analizziamo la situazione in America e la situazione in Europa. Questo secondo me è l'elemento chiave che nel 2015 dovremo tenere in considerazione. La differenza di fondo fra impostazione della politica monetaria, autonomia, indipendenza della Federal Reserve che opera nell'interesse di un'unione federale e scarsa indipendenza dalle autorità politiche per i banchieri centrali europei che invece purtroppo non possono perseguire crescita e occupazione addirittura per mandato. All year long, I've warned the president that by taking unilateral action on matters such as his health care law, or by threatening action repeatedly on immigration, he was making it impossible to build the trust necessary to work together. As I warned the president. E siamo arrivati alla terza sponda, la teoria a Boston dove si dibatte sulla sperequazione e la pratica, la politica monetaria della Fed che poi è la vera leva che porta alla crescita, all'occupazione, almeno qua in America, mentre da noi come abbiamo visto funziona meno, e infine il Congresso che deve decidere sulle leggi. Il Congresso si inaugura oggi, il 114esimo Congresso americano. I repubblicani sono tornati ad avere il controllo del Parlamento dopo 8 anni e vogliono fare molte cose. Le due più importanti ve le segnalo. La prima, un'agenda molto aggressiva sull'energia. Mitch McConnell, il nuovo capo della maggioranza al Senato, vuole costruire i grandi gasdotti oleodotti di Keystone per portare il petrolio, il gas dal Canada fino al Golfo del Messico. Alla Camera si vuole invece modificare la riforma sanitaria di Barack Obama. Ci sarà battaglia politica, ma io credo che su alcune tematiche repubblicani e democratici, o meglio, leadership repubblicana alquanto disponibile e un presidente, Barack Obama, che ha 2 anni di lavoro davanti a sé, dunque in qualche modo deve trovare degli accordi, io credo che finiranno per trovarsi d'accordo su qualche cosa in questo 2015, prima della grande bagarre elettorale per la Casa Bianca del 2016, l'America farà ancora dei passi in avanti da cui forse potremmo, mi auguro, trarre qualche insegnamento. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi è il giorno della Befana, anche abbiamo visto che insomma c'è una sperequazione, e se dobbiamo parlare di sperequazione, dal punto di vista della Befana, il carbone all'Europa e magari la frutta fresca all'America, che sta sicuramente meglio di noi. E proprio dall'America, dal punto di vista musicale, voglio darvi la primissima novità del 2015, una nuova canzone, Only One, che è nata da una collaborazione speciale di Paul McCartney con Kanye West. La canzone vuole ricordare la madre del cantante americano che è morta nel 2007, il testo è scritto dal punto di vista della donna, si conclude chiedendo al figlio di parlare di lei alla nipote, una canzone nostalgica, romantica. Kanye West, Paul McCartney in Only One. You're still my chosen one. So can you understand? One day you'll understand. So hear me out, hear me out. I won't go, I won't go. No goodbyes, no goodbyes. hello, just hello. And when you cry, I will cry. And when you smile, I will smile. And next time when I look in your eyes, we'll have wings and we'll fly. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Amen.